Il punto di Stefano Folli. Nella dura replica di Renzi ai presidenti delle regioni che protestano per i tagli, ci sono tutte le caratteristiche positive ma anche i limiti del modo con cui il presidente del Consiglio affronta i problemi. Renzi vuole essere il decisore, non più l'uomo delle mediazioni. Qualche compromesso circoscritto può essere raggiunto, ma non può essere il risultato di un ricatto pubblico, del tipo non tagliate i fondi, altrimenti la facciamo pagare ai cittadini. È il metodo che il Premier ha usato con le province, con i sindacati e appunto adesso con le regioni. Tende a delegittimare l'interlocutore agli occhi dell'opinione pubblica, che sempre più è indotta a vedere nell'uomo di Palazzo Chigi l'unico vero riformatore in circolazione. Qual è il limite invece? Che gli interlocutori, pur in difficoltà, sono sempre lì e pesano. Le province non sono state ancora abolite, il sindacato non è ovviamente scomparso e le regioni restano un osso duro, anzi è difficile sfidarle perché sono l'istituzione più forte, per quanto screditata dagli sprechi di denaro. Ma giunti a questo punto, indietro non si torna.